Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un libro sulla crisi economica, un libro che però vede la crisi economica in maniera un po' diversa, possiamo dire un po' irrituale rispetto ai tradizionali modi di guardare alla crisi. Il libro si chiama Titanic Europa e già nel titolo e anche nella copertina, dove c'è l'immagine di una nave che sta affondando, dimostra un po' quale prospettiva ha questo libro, una prospettiva che potrebbe sembrare pessimistica. Speriamo non del tutto, e lo chiediamo all'autore, che è Vladimiro Giacchè. Buonasera, dottor Giacchè. Buonasera. Vladimiro Giacchè si è laureato alla Scuola Normale di Pisa, è dirigente di Sator, segue molto attentamente, anche come collaboratore, editorialista di giornali e autore di saggi, il tema della crisi economica. Il sottotitolo di questo libro è La crisi che non ci hanno raccontato. Ecco, come mai, dottor Giacchè? Ma sostanzialmente perché una delle tesi principali di questo libro è che la crisi che stiamo vivendo è la stessa crisi che è iniziata, diciamo che è esplosa tra 2007 e 2008, e che non si tratta né di una crisi principalmente finanziaria né di una crisi del debito pubblico, nel senso che il debito pubblico è una conseguenza e non una causa della crisi in cui si dibattono alcuni paesi europei, e che la crisi finanziaria a sua volta, diciamo, non era all'origine del problema neanche nel 2007-2008. Quindi ci sono tante spiegazioni, lei nel primo capitolo dice proprio una crisi e troppe spiegazioni. Qual è allora la vera origine di questa crisi? Ma guardi, l'origine di questa crisi molto sinteticamente a mio avviso è questa: nel 2007-2008 va in crisi un modello di crescita basato sulla finanza e sul debito, e chi aveva sorretto appunto la crescita per almeno 3 decenni nei paesi occidentali, dove la finanza ovviamente è molto importante, ma era a sua volta una risposta alla crisi, cioè riusciva con diciamo le bolle che riguardavano gli asset finanziari e l'esplodere del credito al consumo, teneva alti i consumi pur a fronte di redditi che non crescevano nei paesi occidentali, sosteneva i settori diciamo maturi dell'industria, pensiamo a quello automobilistico, e ovviamente dava anche la facile via d'uscita della speculazione a capitali che non riuscivano a essere investiti in maniera profittevole nel manifatturiero tradizionale. Ecco, questo modello, che ha con tutta una serie di contraddizioni ha comunque sostenuto la crescita per svariati decenni, è a mio avviso entrato irreversibilmente in crisi nel 2007-2008. Ecco, questo comporta il fatto che non si tratta a questo punto di aggiustare quel modello, di fare degli interventi che possono riportare la situazione finanziaria, economica al livello precedente, ma si tratta di intervenire direttamente sul modello, facendo appunto un paragone con quello che lei pone nel titolo, cioè il Titanic. Non si tratta tanto di cambiare rotta, si tratta di cambiare nave. Sì, si tratta di cambiare nave. Questo non apre prospettive, come dire, millenaristiche, si tratta di capire però dove intervenire in profondità. In questa fase la mia impressione è che affrontare il tema dal lato del debito pubblico con manovre di austerity sia prendere il problema dal lato sbagliato. Ecco, un'altra immagine forse più vicina. Lei dice se il timoniere non vuole cambiare rotta, forse cambiamo il timoniere allora. Sì, questo diciamo all'interno del libro è motivato in questo modo. L'impressione che ho, insomma, credo sia anche abbastanza condivisa, non sono solo in questo, penso che Krugman negli Stati Uniti, ma anche altri premi Nobel abbiano espresso opinioni simili negli ultimi mesi, è che l'establishment europeo non sia il timoniere giusto, ma per un motivo molto preciso, perché sta affrontando questa crisi con degli strumenti culturali inadeguati, che sono quelli di 20 anni fa, insomma, dell'idea di un mercato, insomma, che sia sufficiente liberare il mercato e poi si mette tutto a posto. Purtroppo per noi non è così, sarebbe più facile, però non è così. Ecco, lei è abbastanza pessimista anche sulle prospettive dell'euro, delinea soprattutto in conclusione del suo libro uno scenario che chiama un po' da incubo, con un'Europa che per affrontare il problema però ne crea degli altri, per risolvere il problema dell'euro non affronta, anzi peggiora, il problema dell'economia, entrando in recessione, provocando anche degli squilibri sociali abbastanza forti. Guardi, il punto a mio avviso è questo, che la crisi da affrontare è una crisi, diciamo, per quanto riguarda l'Europa, che nasce da uno squilibrio non nei debiti pubblici, ma nelle bilance commerciali dei diversi paesi. Abbiamo un paese che ha una bilancia commerciale in grande avanzo rispetto agli altri paesi dell'area euro, che è la Germania ovviamente, e abbiamo tutta una serie di paesi con un disavanzo più o meno accentuato. Il caso italiano è un po' ambivalente, nel senso che noi in effetti continuiamo a essere un paese che è fortemente esportatore. Il punto è che se questi squilibri non si prendono alla radice, è assolutamente inevitabile che l'euro diventi una moneta inadeguata, diciamo una moneta che ha come sottostanti delle economie così divergenti che alla fine non va bene per nessuno. Ecco, che non possono essere riequilibrate attraverso le classiche operazioni di svalutazioni delle monete o di rivalutazioni che avvenivano prima dell'euro e che servivano appunto a rimettere in equilibrio anche le bilance commerciali. Sì, questo è ovviamente un punto. Io non sono un fan, diciamo, delle svalutazioni competitive, le ritengo uno strumento abbastanza miserabile, diciamo, per recuperare competitività, però è vero che se viene meno questa leva se ne devono adoperare altre. Se non si riescono ad operare le altre, allora noi abbiamo un problema molto serio. E questo è probabilmente quello che è all'origine di quella che si può definire la tragedia greca, insomma, ecco, senza voler fare facili battute. Tuttavia, nelle ultime righe del suo libro, lei come elemento maggiormente critico non pone né la Grecia, né l'Italia, né la Spagna, ma indica la Gran Bretagna e afferma in particolare che la situazione del Regno Unito sarà aggravata dall'entità abnorme del debito delle banche che va aggiunto a quello pubblico. Quindi anche essere fuori dall'euro non è una soluzione. Assolutamente no. La verità è che per quanto riguarda il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America, la situazione è stata tenuta più sotto controllo grazie al fatto che la banca centrale è intervenuta pesantemente. Pensate che per quanto riguarda il Regno Unito, credo il 20% delle emissioni obbligazionarie statali sia detenuto dalla Bank of England. E questo ha tenuto il problema sotto controllo, però anche qui, se non si affrontano i problemi strutturali, nel caso della Gran Bretagna, a mio avviso, un problema fondamentale è una drammatica deindustrializzazione e un affidamento eccessivo alla parte di servizi, quelli finanziari, che ha portato più profitti evidentemente negli anni scorsi, ma ripeto, un modello che non è più sostenibile. Ecco, se non si pone rimedio a questo tipo di squilibri non si salva nessuno, e da questo punto di vista si capisce anche per quale motivo gli Stati Uniti siano preoccupati della situazione europea, perché capiscono benissimo che un'eventuale, come dire, implosione dell'area sotto il peso dei problemi, insomma, di debito pubblico e di gestione della crisi un po' inadeguata potrebbe avere un effetto domino che arriva sino a loro, insomma. Ecco, lei insiste anche sul tema della democrazia, della mancanza di democrazia, dice appunto bisogna usare di più e mettere dei meccanismi democratici, però d'altra parte anche lamenta un po' il fatto che la Banca Centrale Europea non sia, non possa essere un prestatore di ultima istanza e quindi un prestatore che risolva direttamente, almeno a breve termine, i problemi del debito pubblico. Non è un po' una contraddizione questo nel chiedere più democrazia da una parte, ma dall'altra di dare più poteri a strumenti certamente che non sono democratici, perché devono essere efficienti e devono rispettare più che altro gli interessi di tutti e non di una maggioranza politica? Sicuramente il problema che è sottostante è molto semplice. Noi abbiamo un'unione monetaria, ma non abbiamo una vera unione economica e ancora meno abbiamo un'unione politica. Per cui tutti i problemi da cui è investita la BCE e che si cerca di risolvere, secondo me, in maniera abbastanza inadeguata per il momento, derivano alla fine da questo. Cioè non esiste un'investitura popolare, ma non della BCE, ma di chiunque oggi ambisca a governare l'Europa. E questo secondo me è il problema centrale, perché non c'è nulla di male al fatto che esistano delle banche centrali anche su entità che sono oggettivamente sovranazionali. Gli Stati Uniti si chiamano per l'appunto Stati Uniti e sono 50 stati. E i problemi enormi che hanno in California non esplodono a livello della Grecia per il semplice motivo che ci pensano, appunto, ci pensa la banca centrale e il governo federale a tamponare la situazione. Questo è precisamente quello che manca in Europa, dove non ci sono trasferimenti tra paesi ricchi e paesi poveri e non c'è neanche un riequilibrio, diciamo, nelle economie. Ecco, la speranza è che questa Europa, che è nata proprio come un elemento dinamico, una costruzione, un work in progress, possa continuare in questa dinamica, arrivando appunto progressivamente a coniugare efficienza e democrazia. Assolutamente sì. Credo che un punto da sottolineare è questo. Un po' frettolosamente noi ci siamo affidati a degli strumenti sovranazionali, in qualche caso lo teorizzò Tittmeier, che era all'epoca il governatore della Bundesbank, lodando il fatto che finalmente si lasciava al perenne plebiscito dei mercati, come si espresse lui, quello che prima era offerto a quei plebisciti un po' imperfetti delle urne. Io credo che si debba dare più fiducia ai cittadini europei e ritenere che se le cose vengono spiegate bene e le posizioni in campo si possono confrontare liberamente, le persone abbiano la saggezza di scegliere quella che è la strada migliore. Delle forme, diciamo, un po' di autoritarismo paternalistico come quelle che mi sembra stiano emergendo negli ultimi mesi in Europa, non mi sembra che portino molto lontano. Grazie mille, grazie professor Giacchè di averci illustrato questo libro, un libro che si legge con molta chiarezza, con molta facilità, illustra appunto la storia di questa crisi economica e delinea, come abbiamo visto, anche qualche possibilità, qualche speranza di soluzione. Titanic Europa indubbiamente è un elemento che può portare anche a tragedie, ma in cui anche molti possono salvarsi, e speriamo che si riesca a evitare l'iceberg e si possa arrivare in porto. Ricordo questo libro, l'autore Vladimiro Giacchè, Titanic Europa, la crisi che non ci hanno raccontato, l'editore è Aliberti, le pagine sono 176, il prezzo 14 euro. Grazie a chi è stato con noi, l'appuntamento è per la prossima settimana.